ad alta voce. Agnese Nano legge Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens. Traduzione di Marisa Sestito. Quindicesima puntata. Ombra sulla meridiana. Ancora una volta la signorina Twinkleton ha tenuto il suo discorso di addio, accompagnato da torta e vino bianco. E ancora una volta le ragazze sono partite per tornare a casa. Elena Landless ha lasciato la casa delle monache per seguire le sorti di suo fratello e la traente Rosa è sola. Cloisterham è talmente luminosa e piena di sole in questi giorni d'estate da far parere trasparenti le massicce mura della cattedrale e le rovine del monastero. È come se un caldo bagliore le irradiasse dall'interno invece di illuminarle dall'esterno, tanto morbido e dorato è il loro colore mentre si affacciano sui torridi campi di grano e sulle strade fumanti e sinuose che li attraversano in lontananza. I giardini di Cloisterham arrossiscono di frutti maturi. Nel tempo passato, gruppi di pellegrini impolverati dal viaggio cavalcavano vociando attraverso la gradita ombra della città. Nel tempo presente, viandanti con vita da zingari nel periodo tra la fienagione e il raccolto, apparentemente fatti di nient'altro che polvere della terra, coperti come sono di polvere, oziano sui freschi gradini delle case, cercando di aggiustare le loro inaggiustabili scarpe o buttandole rassegnati nei canali della città, e cercandone altre nei fagotti che si portano dietro, assieme ai falcetti non ancora usati e fasciati di paglia. Accanto a tutte le fontane pubbliche, questi beduini si affollano a rinfrescare i piedi nudi e a bere, gorgogliando rumorosamente, facendo sprizzare lo zampillo con le mani. Nel frattempo, i poliziotti di Cloisterham, nei loro giri di guardia, li sorvegliano sospettosi, palesemente impazienti che gli intrusi si allontanino dall'area municipale e tornino ad arrostirsi nell'inferno delle strade maestre. Nel pomeriggio di uno di questi giorni, quando l'ultima funzione in cattedrale è terminata e la parte del corso dove si trova la casa delle monache è gradevolmente in ombra, una domestica in forma rosa, con suo grande terrore, che il signor Jasper desidera vederla. Se avesse scelto di proposito un momento per trovarla in condizione di inferiorità, non avrebbe potuto far di meglio. Forse l'ha scelto. Elena Landless se n'è andata. La signora Tisher è in permesso. La signorina Twinkleton, nella fase frivola della sua esistenza, ha condisceso a recarsi a un picnic insieme ad un pasticcio di vitello. «Oh, perché gli avete detto che ero in casa?» grida Rosa nella sua impotenza. La domestica risponde che il signor Jasper non l'ha chiesto. Ha detto di sapere che era in casa e le mandava a dire che desiderava vederla. Rosa, in preda a una sorta di disperazione, aggiunge d'un fiato che lo incontrerà in giardino. Rabbrividisce all'idea di trovarsi chiusa in casa insieme a lui, ma molte finestre danno sul giardino e lì può essere vista e anche sentita, e all'aperto può gridare e scappar via. È questa l'idea selvaggia che le fluttua in mente. Non l'ha più visto dalla notte fatale, tranne quando è stata interrogata al cospetto del sindaco, e la sua presenza allora è stata cupa e vigile, come rappresentante del nipote scomparso, arso dalla smania di vendicarlo. Rosa si allaccia il cappello di paglia al braccio ed esce. L'attimo in cui lo vede dal portico, appoggiato alla meridiana, si sente riafferrare dall'antica orrenda sensazione di essere in suo potere. Sente che perfino in quel momento tornerebbe indietro se lui non la trascinasse verso di sé. Incapace di resistere, si siede a testa china sulla panca davanti alla meridiana. Tale è la sua ripugnanza che non può alzare lo sguardo su di lui, ma percepisce che è vestito in lutto stretto. E anche lei lo è. Non è stato così all'inizio, ma lo scomparso da molto tempo è stato dato per perso e pianto come morto. Lui vorrebbe iniziare toccandole la mano. Lei ne intuisce l'intenzione e la ritrae. Allora le fissa gli occhi addosso, lei lo sa, anche se i suoi non vedono che l'erba. Per qualche tempo sono rimasto ad aspettare, inizia, di essere richiamato al mio dovere nei vostri confronti. Dopo vari tentativi di muovere le labbra, risponde: dovere, signore? Il mio dovere di insegnante, servendovi come fedele maestro di musica. È uno studio che ho abbandonato. Non direi abbandonato, sospeso. Il vostro tutore mi ha informato che l'avete sospeso per il brutto colpo che tutti noi abbiamo così dolorosamente patito. Quando volete riprendere? Mai, signore. E vi prego di non farmi altre domande in proposito. Non intendo più rispondere. Questo ho il potere di farlo. È talmente consapevole del suo sguardo, ammirato e attratto dalla collera improvvisa che la fa avvampare, che il suo vigore crolla nell'atto stesso di animarsi, e lei lotta con un senso di vergogna, oltraggio e paura. Non vi rivolgerò altre domande, dato che vi opponete con tanta decisione. Farò una confessione. Non desidero ascoltarvi, signore, esclama Rosa alzandosi. Stavolta tende la mano e la tocca. Ritraendosi dal suo gesto, col cuore stretto si risiede. Talvolta dobbiamo agire contro i nostri desideri, le mormora. Voi dovete farlo adesso, o altrimenti arrecare ad altri un danno irreparabile. Che danno? Tra un po', vedete? Mi fate delle domande e questo non è corretto quando proibite a me di farvene. E tuttavia vi risponderò subito. Rosa carissima, incantevole Rosa. Lei si rialza di scatto. Stavolta non la tocca, ma la sua faccia è così piena di cattiveria e minaccia, mentre se ne sta in piedi appoggiato alla meridiana, incidendo per così dire il suo marchio nero sul volto stesso del giorno, che nel guardarlo la sua fuga si blocca per l'orrore. Non dimentico tutte quelle finestre da cui possono vederci, dice. Non vi toccherò, non farò un passo per avvicinarmi più di così. Sedetevi, e nessuno si meraviglierà se il vostro maestro di musica se ne sta appoggiato pigramente a un piedistallo e parla con voi, ricordando gli eventi passati e come ne siamo stati coinvolti. Di nuovo se ne sarebbe voluto andare, stava per farlo, e di nuovo la sua faccia, carica di oscure minacce sulle conseguenze dell'atto, l'ha fermata. Guardandolo con un'espressione raggelata in viso, si risiede sulla panca. Rosa, perfino quando il mio caro ragazzo era fidanzato con voi, vi amavo alla follia. Perfino quando ero convinto che la sua felicità di avervi come moglie fosse certa, vi amavo alla follia. Perfino quando mi ha dato il ritratto del vostro bel volto da lui involgarito con tanta noncuranza e io ho finto di appenderlo dove potevo vederlo sempre per amor suo e invece lo adoravo tormentandomi, vi amavo alla follia. Nello sgradevole lavoro del giorno, nell'insonne felicità della notte, accerchiato da sordide realtà o vagabondando attraverso i paradisi e gli inferni delle visioni in cui mi gettavo abbracciato alla vostra immagine, vi amavo alla follia. Se qualcosa potesse rendere più odiose le sue parole di quanto già non siano di per sé, sarebbe il contrasto tra la violenza dello sguardo e dell'esposizione e l'artefatta compostezza dell'atteggiamento. Ho sopportato tutto in silenzio, finché siete stata sua, o finché io ho immaginato che lo foste. Ho tenuto lealmente nascosto il mio segreto, me ne darete atto. Questa menzogna così grossolana, mentre le semplici parole che la compongono sono così vere, è più di quanto Rosa possa sopportare. Risponde con indignazione veemente. Siete stato falso sempre, come lo siete adesso. Siete stato falso con lui ogni giorno, ogni ora. Lo sapete di avermi resa infelice con la vostra persecuzione. Lo sapete che a causa vostra avevo paura di aprire quei suoi occhi generosi che mi avete costretta per il suo bene, fiducioso e buono com'era, a tacergli la verità, a nascondergli che eravate un uomo malvagio. Mentre mantiene il suo atteggiamento noncurante, che rende la contrazione del viso e il movimento convulso delle mani assolutamente diabolici, risponde con ammirazione estrema e feroce. Come siete bella. L'ira vi rende più bella della serenità. Non chiedo il vostro amore. Datemi voi stessa il vostro odio. Datemi voi stessa e la vostra rabbia squisita. Datemi voi stessa e l'incanto del vostro disprezzo. Mi basterà. Lacrime inquiete salgono agli occhi della piccola bellezza tremante. Il suo volto è in fiamme, ma quando di nuovo si alza indignata per lasciarlo e cercare protezione dentro la casa, lui tende la mano verso il portico, come invitandola ad entrare. Ve l'ho detto, splendida incantatrice, dolcissima strega, che dovete restar qui a sentire se non volete arrecare un irreparabile danno. Mi avete chiesto che danno. Fermatevi e ve lo dico. Andate e colpisco. Di nuovo Rosa si perde d'animo davanti alla sua faccia minacciosa, pur inconsapevole del suo intento, e rimane. Respira in affanno, come stesse per soffocare, ma premendosi una mano sul petto, rimane. Ho confessato che il mio amore è folle. È talmente folle che se il legame col mio caro ragazzo perduto fosse stato meno forte, anche solo di un filo di seta, avrei potuto spazzar via anche lui dal vostro fianco quando gli dimostravate il vostro affetto. Gli occhi le si velano quando li solleva fugacemente, come se fosse sul punto di svenire. Anche lui, ripete. Sì, anche lui. Rosa, mi vedete e mi sentite. Giudicate voi come possa mai amarvi e vivere un qualsiasi altro amante se la sua vita è nelle mie mani. Cosa volete dire? Voglio dimostrarvi quanto sia folle il mio amore. Grazie alle recenti dichiarazioni di Crisparkle, è emerso che il giovane Landless gli ha confessato di essere un rivale del mio perduto ragazzo. Questa, ai miei occhi, è un'offesa inespiabile. Lo stesso Crisparkle sa, per averlo visto scritto di mio pugno, che mi sono votato a scoprire e distruggere l'assassino, chiunque sia, e che ho deciso di non discutere il mistero con nessuno prima di possedere l'indizio che mi servirà da rete per impigliarlo. Da allora ho lavorato pazientemente, avvolgendogliela intorno, e anche adesso, mentre parlo, lentamente lo avviluppa. La vostra certezza, se siete certo della colpa di Landless, non è quella di Crisparkle, e lui è un uomo buono, replica Rosa. La certezza è mia, la tengo per me, mia adorata. Le circostanze sospette possono accumularsi in tale quantità, anche contro un innocente, che ben dirette, affilate e appuntite lo possono uccidere. Un anello mancante, scoperto grazie alla perseveranza, prova la colpa di un criminale, per quanto improbabile sia apparsa in precedenza, e lo condanna a morte. Il giovane Landless, innocente o colpevole che sia, corre un pericolo mortale. Se veramente credete, replica Rosa impallidendo, che io provi simpatia per Landless o che Landless si sia mai dichiarato a me, sbagliate. Allontana quell'idea con un gesto sprezzante della mano e una smorfia della bocca. Vi volevo dimostrare quanto sia folle il mio amore. ora più che mai, poiché sono disposto a rinunciare all'altro scopo che avevo nella vita per dividerla con voi. Sono disposto a non avere nella mia esistenza altro scopo che voi. Elena Landless è diventata la vostra più cara amica. Vi sta a cuore la sua serenità? Le voglio molto bene. Vi sta a cuore il suo buon nome? Ho detto, signore, che le voglio molto bene. Senza volere, osserva sorridendo mentre congiunge le mani sulla meridiana e vi appoggia il mento, in modo che dalle finestre dove occasionalmente facce passano avanti e indietro la sua conversazione paia lieve e scherzosa. Senza volere vi offendo nel porvi ancora delle domande. Dunque farò delle semplici affermazioni senza porre domande. Vi sta a cuore il buon nome e la serenità della vostra più cara amica. E allora, amor mio, allontanate da lei l'ombra della forca. Osate propormi? Mia amata, oso proporvi il matrimonio. Questo è tutto. Se è un male idolatrarvi, sono il peggiore degli uomini. Se è un bene, sono il migliore. Il mio amore per voi supera ogni altro amore. E la mia verità nei vostri confronti supera ogni altra verità. Datemi speranza e favore, e per amor vostro sarò spergiuro. Rosa si porta le mani alle tempie e, spingendosi indietro i capelli, lo guarda sconvolta e inorridita, come tentando di comporre il senso occulto del suo disegno che lui traccia a frammenti. Se mi respingete ora, ma non lo farete, non vi libererete mai di me. Nessuno si dovrà mettere tra di noi. Vi perseguiterei fino alla morte. Mentre la domestica viene ad aprirgli il cancello, si leva tranquillamente il cappello in segno di saluto e se ne va, senza manifestare un'agitazione maggiore di quella trasmessa dall'effigie del padre di Sapsi sul lato opposto della strada. Rosa sviene mentre sale le scale. Viene portata nella sua stanza e adagiata sul letto. Si sta avvicinando un temporale, dicono le domestiche, e l'aria afosa e soffocante ha fatto star male il piccolo tesoro. Naturale, anche loro, per tutto il giorno, si sono sentite tremare le ginocchia. Agnese Nano ha letto Il mistero di Edwin Drood di Charles Dickens, a cura di Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.